Investire informati. Eccoci qua, pronti a partire con il tema del giovedì. Il tema è a cavallo tra il medico e il finanziario. Ce l'abbiamo. Niente, perdevo un po' di tempo perché volevo far partire un contributo che adesso è pronto a partire. Investire informati. Il coronavirus avanza, l'economia si ritrae, le conseguenze economiche e logistiche per le aziende piccole e grandi seguono la curva dell'emergenza sanitaria. Sono due i settori che più di altri rischiano il contagio, quello automobilistico e l'high-tech. Foxconn. In Italia che non riesce a crescere, che ha archiviato in negativo il PIL del quarto trimestre, ora a preoccupare le imprese è il possibile rallentamento del gigante cinese, verso il quale ci lega un interscambio. Abbiamo il precedente della SARS, dove ci fu un impatto sulla Cina e più limitato sul resto del mondo di qualche decimale, che poi fu riassorbito dopo il primo trimestre, ma naturalmente dipenderà da come si svilupperà questo virus. Sì, abbiamo voluto proporre ai nostri ascoltatori questo collage di pezzi, titoli appunto dei telegiornali e dei giornali radio per così risintetizzare un po' quello che è il tema dominante in questi giorni e che catalizza gran parte dell'attenzione degli operatori finanziari che cercano di quantificare quello che sarà l'impatto economico di questa epidemia. Mauro. Sì, perché infatti naturalmente, a parte tutte le considerazioni di ordine sanitario, ma sulle quali rimandiamo come sempre a Obiettivo Salute, che va in onda proprio dopo Due di Denari, tra pochissimo, invece le considerazioni economiche hanno cominciato a farsi strada, anche forse perché la mortalità effettivamente di questo virus non sembra elevata, quindi la preoccupazione è più per la diffusione e quindi anche per il rallentamento complessivo sull'economia. Ci sono stati anche interventi diciamo di organismi, di agenzie di rating importanti, sì, che hanno provato a quantificare quale può essere l'impatto di una diffusione di massa di questo virus. Allora, la prima domanda per Lorenzo Alfieri, che è tornato a trovarci in studio per questo Investire Informati, è proprio questa: qual è la percezione, l'attesa, il timore per quanto riguarda gli effetti economici di una eventuale diffusione ulteriore del virus? Dico eventuale perché effettivamente sembra che ieri ci sia stato un rallentamento già nei casi accertati. E poi si è riproposta invece questa situazione del ricalcolo delle vittime, che non si capisce perché le autorità cinesi abbiano dovuto rendere noto appunto che c'è una quantificazione diversa delle vittime, se quelle sono, comunque a parte sono un po' tutte questioni sempre un po' alla cinese, vediamola così, nelle questioni di comunicazione, sono fatti un po' così. Scusami se ti ho interrotto, ma insomma c'era anche, perché che stamattina il mercato scenda anche per questo. Per le questioni di poca chiarezza nella comunicazione. E allora Alfieri, che succede? Come dobbiamo interpretarlo? Beh, chiaramente siamo di fronte al famoso cigno nero, cioè un evento che era fino a poco tempo fa imprevedibile. Siamo nelle primissime fasi, quindi sono purtroppo ovviamente aleatorie tutte le valutazioni. Diciamo che in generale fino a questo momento le valutazioni degli esperti complessive incidono in modo, direi, sostanzialmente marginale sulle previsioni che erano state fatte alla fine del 2019, nelle primissime settimane del 2020, per tutto l'anno. Quindi siamo ancora in una fase embrionale e anche per questo si vedono i mercati finanziari che rispondono in modo abbastanza contraddittorio. È vero, infatti abbiamo avuto, non appena la notizia è cominciata a diffondersi qualche settimana fa, una reazione estremamente negativa. Poi c'era stata anche la famosa settimana di chiusura della borsa cinese per il capodanno lunare, alla riapertura c'è stato un calo importante. Poi anche l'Asia si è abbastanza rapidamente riassestata. Quindi perché non ci si preoccupa? Ecco, partiamo dallo scenario di base. Lo scenario di base, ricordiamo, è quello di un 2020 che si stava presentando tutto sommato particolarmente favorevole alla ripresa economica in alcune aree chiavi quali gli Stati Uniti, l'Europa e anche la Cina. dati previsionali, attenzione, non di straordinaria di straordinario recupero, ma comunque finalmente un rilancio dopo una seconda parte del 2019 che era stato direi in penombra. Quindi questi fatti poi venivano confermati dai primi dati delle trimestrali di fine anno degli Stati Uniti, che erano per la grande maggioranza, sono state per la grande maggioranza superiori alle aspettative. Quindi la corporate americana si presenta nel 2020 sostanzialmente molto solida. Ecco, ovviamente cos'è accaduto? È accaduto ovviamente l'imprevisto, l'imprevedibile, ma lo scenario, come dicevo all'inizio, non è ancora delineato in tutta la sua criticità, per cui gli esperti ancora guardano tutto sommato al bicchiere mezzo pieno, cioè al fatto che le economie sono solide, che le aziende sono con traiettoria di crescita degli utili tutto sommato molto interessante, e soprattutto che c'è la politica monetaria estremamente disponibile. Non ci dimentichiamo che in queste ultime ore quattro banche centrali dei paesi dell'area asiatica hanno sostanzialmente confermato la volontà di tagliare i tassi, e questo ovviamente permea, per così dire, di un'area di maggiore tranquillità le attività degli investitori, che vedono ovviamente loro alleati le banche centrali in qualsiasi scenario, anche ovviamente scenari più complessi. Allora, intanto volevo segnalare una iniziativa, anzi ne segnalo due, guarda, prendo proprio, mi allargo. Non badi a spese, no. Oggi. Allora, da una parte sul sito del Sole 24 Ore c'è un aggiornamento live proprio su questo, queste contestazioni anche che sono emerse riguardo ai calcoli, quindi quante sono effettivamente le vittime, quanti sarebbero i nuovi contagi, questa nuova modalità diagnostica che ha modificato i numeri che abbiamo avuto a disposizione fino a ieri sera. Sono stati, diciamo così, aggiornati con una modalità diversa, è cambiato il criterio, insomma. Tutto questo lo trovate poi con aggiornamenti sui mercati finanziari e gli effetti anche ad esempio sulla domanda di petrolio sul sito del Sole 24 Ore. Mentre sul sito di Radio 24, cara Debora, cosa è successo? Sono a disposizione le interviste che abbiamo realizzato a Consulenza 2020. È vero. Tra l'altro un'intervista anche proprio con Lorenzo Alfieri, in cui abbiamo chiesto ai grandi interpreti, ai grandi protagonisti del risparmio degli investimenti, quali sono i trend, le tendenze più importanti, cosiddetti, come le chiamate, megatrend. I megatrend, sì. Megatrend, cioè quali sono le tendenze che detteranno i nostri comportamenti e i comportamenti degli operatori per tutto quest'anno e anche presumibilmente negli anni a venire. Negli anni prossimi, sicuramente, visto che i consulenti continuano a suggerirci di spostare sempre più in avanti le lancette del nostro orologio in quanto risparmiatori, perché il processo demografico va in una certa direzione, quindi dobbiamo dare più tempo al nostro capitale per avere dei rendimenti quantomeno soddisfacenti secondo le nostre aspettative. Chiaramente abbiamo anche noi, in queste conversazioni fatte con i protagonisti del mondo degli investimenti, spostato un po' le lancette in avanti per capire quali saranno i grandi trend che ci condizioneranno. Lorenzo Alfieri. No, volevo appunto aggiornare poi il discorso che facevamo precedentemente. Ecco, i mercati perché rimangono così sostanzialmente positivi? Perché se poi vediamo le previsioni del 2021, quasi tutti gli analisti non fanno altro che concludere che se ci sarà una correzione nella crescita del 2020, il 2021 più che ricomporrà questa crescita, e quindi evidentemente uscire da un mercato che promette crescita in questo momento non viene vista un'ottima soluzione, anche perché in previsione di un forte rimbalzo. Faccio un esempio: in questo momento la crescita della Cina dal 6% dovrebbe atterrare intorno al 5%, ma se andiamo a vedere le previsioni del 2021, la crescita in Cina viene confermata intorno al 6,1-6,2, quindi anche per questo motivo gli investitori guardano, per così dire, in questa fase, in questa prima fase, il bicchiere mezzo pieno. Bisognerà anche però leggere in qualche maniera le considerazioni di chi non si fida più di tanto e magari vuole riorganizzare la propria esposizione verso il mercato asiatico, e quindi cosa deve fare, con che strategia. Magari ripartiamo da qui dopo. Dopo le borse. di denari. E non ha lunedì nero, non conosce default. Non sono d'accordo con l'ascoltatore che avete fatto sentire un attimo fa, perché il mio medico è più sbrigativo. Ha aumentato di 5 euro ogni transazione, che la pago io, non la paga il medico, il professionista o la banca. Grazie. Ah, però il sovrapprezzo del professionista sul pagamento tracciabile. Mi sembra un po' onerosa questa commissione. Ma ti ricordi che quando l'anno scorso c'era il debutto della fattura elettronica, c'era anche il rincaro della fattura di cortesia, che era assolutamente illecito, peraltro lo vorremmo ribadire anche a un anno di distanza. Cioè, se uno chiede la cosiddetta fattura di cortesia, cioè stampare la fattura per darla, non è che può chiedere un extra perché sta facendo questa operazione. Adesso si vede che ci sarà anche la tracciabilità di cortesia, per cui viene ricaricato un extra. Ma tutti gli anni passati a norme tribute, cosa hai fatto? No. Se non si è sensibilizzato nessuno su questi argomenti. Guarda, mi viene da rispondere con una battuta: ho preparato l'elisir del dottor Meazza, quello che reclamizza a maniera, probabilmente era questo. Senti, torniamo a parlare di cose serie, perché abbiamo lasciato in sospeso la questione sicuramente dei nostri investimenti in Cina, nel caso avessimo una porzione del nostro portafoglio naturalmente in una diversificazione idonea ai nostri bisogni. Dobbiamo cambiare approccio, per chi si fosse preoccupato in maniera un po' più significativa rispetto agli operatori professionali di questa emergenza, di questo periodo, se non ci si fidasse più di tanto delle previsioni di crescita della Cina, anche se spieghiamo sempre che in queste aree bisogna starci veramente per un lungo periodo di tempo. Come bisogna riorganizzare il nostro risparmio? Beh, ma direi, appunto, come correttamente citato adesso, proprio le aree osservate, cioè quelle per esempio dei mercati emergenti, e la Cina ovviamente fa parte di questo ambito, sicuramente vanno affrontati con un'ottica di medio e lungo termine. Quindi per il momento noi non abbiamo assolutamente cambiato le nostre previsioni, e quindi la nostra cosiddetta asset allocation, cioè il posizionamento su queste aree. Non ci sono i presupposti, come dicevo all'inizio, le previsioni di crescita rimangono tutto sommato sostanzialmente invariate, e quindi bisognerà eventualmente aspettare l'evoluzione e la comprensione di questa crisi che deriva dal coronavirus e le conseguenze, per poi valutare se una posizione, una costruzione di portafoglio che è stata costruita, immagino, nel 2019, quindi con previsioni di crescita molto chiare, debba essere modificata. Ma noi per il momento non abbiamo cambiato assolutamente asset allocation, soprattutto guardando proprio ai mercati emergenti, che ricordo sono al momento una delle aree da noi preferite. Abbiamo anche degli ascoltatori che vorrebbero intervenire in diretta. Esatto, no, tra l'altro lo prendiamo volentieri, perché in qualche maniera poi ci porterà anche a commentare l'esito delle aste che abbiamo comunicato poco fa durante il collegamento di borsa. Davide da Lucca, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci a lei. Vorrei sapere quali sono gli indici obbligazionari più importanti. Davide, quindi proprio un'informazione di servizio, e casualmente quelli di JP Morgan sono fra i più utilizzati benchmark, se vogliamo, di mercato. Sì, diciamo che innanzitutto l'industria si è strutturata un po' per comparti, nel senso che ci sono indici sui governativi europei o internazionali, su ovviamente il corporate, cioè le obbligazioni emesse da aziende europee o eventualmente americane o a livello globale, oppure i mercati emergenti. In generale gli indici più utilizzati sono quelli appunto di JP Morgan, Barclays, alcune volte vengono utilizzati anche quelli di Citibank, Bank of America. Quindi diciamo che questi sono gli indicatori di riferimento. Ovviamente l'industria evolve, e ricordo solo che adesso ultimamente si stanno individuando anche eventualmente indici per i cosiddetti investimenti ESG, quindi ovviamente ci saranno delle evoluzioni anche in questi indici, perché gli indici tradizionali, ora come vengono utilizzati, esprimono ovviamente un mondo, un universo di investimento diverso. Se si va verso ovviamente una prerogativa ESG, quindi bisognerà utilizzare adeguati indici di riferimento. Certo. Io vorrei fare il pedante come al mio solito, Deborah, ESG, cioè sì, ambiente, impatto sociale e governance, quindi investimenti cosiddetti sostenibili. Esatto, quindi sostenibilità in genere, quindi vuol dire che l'impresa, l'attività su cui si decide di investire, su cui gli operatori decidono di investire, è non solo preoccupata del suo impatto ambientale, ma anche ben gestita e anche un buon rapporto con il territorio e la collettività nel suo insieme. Non solo una buona reputazione sui social network, ecco, questo sta per la S di ESG, che è questa sigla. Benissimo, allora il BTP a 3 anni scivola in territorio negativo come rendimento, al minimo storico meno 0,1%, scende anche il rendimento del titolo a 7 anni collocato poco fa. Ieri il mercato ha collocato bot annuali per 6 miliardi, il rendimento anche in questo caso negativo, ancora in discesa, meno 0,31%, e 2 giorni fa invece ha avuto un incredibile successo in termini di richiesta il nuovo benchmark collocato dal Ministero dell'Economia, il titolo a 15 anni, che ha ricevuto richieste per un ammontare complessivo di 50 miliardi, poi il Tesoro appunto ne ha collocato molto meno, ma in ogni caso 9 miliardi, ma in ogni caso anche questo è stato un test di grande rilievo per le casse pubbliche sicuramente. Certo che se ci mettiamo dal punto di vista di un piccolo risparmiatore, posizionarsi su questi strumenti è sempre meno vantaggioso. Come dobbiamo leggere? Dove pende l'ago della bilancia dell'investitore qualificato, Alfieri? È un po' la dinamica che disegnavo prima. 2019 e 2020 si assomigliano soprattutto per quanto riguarda l'area degli investimenti obbligazionari. Non c'è traccia di inflazione, il coronavirus, sapete, poi ha creato anche una forte correzione sui mercati del petrolio e quindi anche la cosiddetta bolletta energetica in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dovrebbe in teoria diminuire. Comunque non ci sono pressioni inflazionistiche all'orizzonte, le politiche monetarie rimangono ancor più fortemente espansive, eventualmente proprio per scongiurare un rallentamento del ciclo economico dovuto alla crisi all'eventuale potenziale crisi del coronavirus. Quindi i mercati obbligazionari rimangono estremamente favorevoli e ovviamente ne vanno a beneficiare quelle poche aree di investimento che ancora offrono rendimenti positivi. Vi ricordo che in questi giorni la Grecia ha toccato i nuovi minimi storici in termini di rendimento, a testimonianza di come ormai anche paesi che venivano percepiti come particolarmente rischiosi oggi non lo sono più. Quindi in questa situazione molto difficile investire nel mercato obbligazionario, i rendimenti sono molto bassi, quindi indubbiamente il cosiddetto fai da te è assolutamente da escludere, perché inevitabilmente le opportunità di investimento sull'obbligazionario ci sono, ma sono relegate alle cosiddette asset class più professionali e rischiose, quelle, non so, del credito negli MBS o nella yield, per cui evidentemente da parte del singolo investitore è meglio evitare fare da soli, ma utilizzare gli strumenti MBS adeguati. Sta per? Beh, sono i mortgage, sono sostanzialmente mutui, investimenti, cartolarizzazioni, sì, di crediti immobiliari. Vi ricordo solo che la famosa crisi del 2008, ce lo ricordiamo bene, era partita da lì, quindi bisogna essere anche in questa area molto molto cauti, bisogna saper selezionare e sapere esattamente cosa si sta andando a comprare. E invece non ci sono rischi se volete partecipare al nostro domandone? Agevola il cadeau che assegniamo magari anche più di uno, dai, mi voglio rovinare. Guarda, tutte e tre le copie che ho qua sul mio tavolo, pronta a regalarle. Visto che la domanda è difficilotta, perché è infatti l'ha preparata Deborah, che è notoriamente più esigente con voi ascoltatori, ma vogliamo sapere come si chiama quel fenomeno per il quale l'economia va da una parte e le borse invece vanno dalla parte opposta. L'abbiamo detto prima, se siete stati attenti. Due di denari. bentornati a Due di Denari. Vogliamo sapere come si chiama quel fenomeno secondo il quale le borse vanno in una direzione e l'economia va nella direzione opposta all'economia reale. Per rispondere accettiamo solo e soltanto la telefonata al 800 24 00 24. Poiché vi voglio aiutare, perché non sono cattivello invece come è stata Deborah nel fare questa domanda, vi dico anche che è una parola inglese e che l'abbiamo pronunciata proprio nella prima parte di questa trasmissione. Però più di così non posso dirvi, allora, perché altrimenti poi Deborah mi picchia. Stai continuando ad accusarmi, ce l'hai con me, perché ghignavo quando ho capito che come intimacy coordinator non hai avuto alcuna richiesta. No, perché non hai ancora acquistato l'elisir del dottor Meazza, guarda, è per quello. Ma se ti ho detto, se cancella le rughe lo compro, ti ho detto che ne prendo ben due adesso bottiglie. Adesso ti farò una formulazione apposita. Vabbè, senti, tornando ai nostri ascoltatori invece, peraltro c'è Gino dalla provincia di Genova che adesso sentiremo, ma volevo chiedere un'ulteriore considerazione a Lorenzo Alfieri sul tema dei rendimenti negativi, dei tassi negativi, che è una condizione con la quale ormai abbiamo fatto amicizia e questa amicizia sta diventando sempre più stretta e solida, perché probabilmente ci accompagnerà ancora a lungo. In questo contesto di tassi così bassi per quello che riguarda il mercato obbligazionario e borse alle stelle, gli italiani continuano a tenere un sacco di denaro sul conto corrente, ormai siamo a 1.500 miliardi di euro, e sono tornati a circolare i conti di deposito, che offrono delle remunerazioni interessanti. Non tutte le banche lo fanno, lo sta facendo qualcuna, ma insomma, che segnale è anche questo? Beh, chiaramente c'è una difficoltà oggettiva. I mercati finanziari, come dicevo prima, non stanno aiutando. Gli investitori italiani sono molto propensi a investire in obbligazionario o comunque nella parte breve della cosiddetta curva. Circa il portafoglio ideale è 70% sull'obbligazionario e 30% sull'equity, quello che esprime in media l'investitore italiano. E quindi l'approccio che bisogna avere inevitabilmente è, innanzitutto, purtroppo la liquidità non salva dall'investimento, perché non ci dimentichiamo che c'è l'erosione eventuale dell'inflazione, quindi tenere la liquidità ferma non è sicuramente una soluzione di medio-lungo termine. È ragionevole ovviamente tenerla nel medio-lungo termine, nel breve termine, ma i mercati così difficili, noi pensiamo che comunque, ciò nonostante, si può entrare, però gradualmente, attraverso ad esempio soluzioni come il piano di accumulo programmato. È evidentemente l'espressione più chiara che per avvicinarsi ai mercati finanziari così complicati bisogna avere una pianificazione di medio-lungo termine. Vogliamo sentire Gino, perché Gino, diciamo, pare riassumere due argomenti già evocati, appena evocati proprio da Lorenzo Alfieri. Gino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Stavo chiedendo al vostro esperto, mi hanno consigliato di investire un pochettino sui obbligazionari, sui mercati emergenti. Volevo capire se è un buon consiglio, visto il momento, e cosa le prospettive per il futuro. Allora, certo, settore. Bisognerebbe vedere quante aree sono rappresentate in questa esposizione che le è stata suggerita. Ha detto anche una bella parola, Gino, un pochettino, e un quindi pochettino, speriamo che quindi sia una porzione. Quindi diversificazione, noi traduciamo questo un pochettino, Lorenzo Alfieri, con diversificazione. Ammesso che siamo quindi abbiamo a che fare con un risparmiatore che sta diversificando, mercati emergenti, ne parlavi poco fa, obbligazionario, cioè pure ne stavamo parlando, è un'area, hai detto, innanzitutto niente fai da te. Perché sì, bisogna sapere dove mettere i piedi. No, non è corretto rispondere sì o no a questa domanda. Esatto. Bisogna ovviamente inquadrarla. Innanzitutto, se il cliente è avvezzo eventualmente a subire una volatilità, i mercati obbligazionari emergenti sono sicuramente tra quelli più volatili. Vi ricordo che nel 2019 abbiamo avuto una fortissima correzione sul mercato obbligazionario argentino, del tutto inaspettata. Secondo luogo, l'orizzonte temporale è molto importante, soprattutto sui mercati emergenti. Bisogna avere un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Medio-lungo termine significa 3-5 anni, non bisogna pensare di entrare oggi per uscire fra un mese. Terzo, noi guardiamo con particolare favore i mercati obbligazionari emergenti, crediamo che sia una fase dove c'è del valore. valore che è molto più difficile invece trovarlo in altri mercati più tradizionali, come ad esempio quello governativo. Allora, abbiamo fatto dei grandi ragionamenti in termini, come dire, geografici, territoriali. Vorrei puntare il radar adesso invece sul settore, sul tema settoriale, perché vediamo che negli Stati Uniti è la tecnologia la grande protagonista di questa fase, grandi investimenti, grande attenzione appunto allo sviluppo di tante soluzioni innovative. Questo sarà il grande mega trend intramontabile, immaginiamo, per lungo tempo, ma non è un concetto, diciamo, che terrà banco a lungo, ecco, come magari la serie di primati della tua squadra lì di riferimento. Esatto, e quindi insomma, anche come investimento a livello settoriale dobbiamo puntare tutto sull'innovazione, peraltro anche quella farmaceutica in questo periodo è il grande tema che catalizza l'attenzione generale. Allora, c'è il tema dell'innovazione tecnologica che giustamente attraversa tutti i settori. Ovviamente possiamo dire che negli ultimissimi anni l'innovazione tecnologica si è focalizzata solo su un segmento, quella della tecnologia, soprattutto tecnologia americana. Quindi le aziende americane hanno beneficiato in modo rilevante di questo trend. Ecco, non bisogna dimenticare che l'innovazione tecnologica attraversa altri settori, giustamente è stato citato quello del cosiddetto healthcare, del benessere, ma non solo, sta attraversando altri settori anche molto più tradizionali. E in secondo luogo, inevitabilmente, ci sono anche altre aree, soprattutto l'Europa e ultimamente anche i mercati emergenti, che esprimono aziende fortemente coinvolte nell'innovazione tecnologica, nell'innovazione in quanto tale, e quindi possono partecipare e parteciperanno in modo molto attivo a questi megatrend. E quindi non bisogna guardare solo agli Stati Uniti, ma bisogna avere ovviamente la voglia, il coraggio di guardare anche oltre. E quindi ci sono aziende, soprattutto ad esempio in Europa, che sono molto interessanti e a multipli molto più accettabili. Bene, stiamo chiudendo. Assegniamo i nostri premi, vediamo se qualcuno ci dà la risposta giusta. Antonello da Genova. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, ci dica. Sì, buongiorno, volevo dare la risposta che è decoupling. Complimenti. Bravo Antonello, e salutiamo anche Marco da Milano, buongiorno. Vediamo buongiorno. Se lo pronuncia correttamente. Decoupling. Va bene. Va bene. E poi anche Giancarlo dalla provincia di Milano, che non riusciamo a sentire, ma ci manderanno i loro indirizzi a duedidenari@radio24.it e noi manderemo loro molto volentieri la guida come proteggere i propri risparmi. A domani, che è San Valentino. Grazie a Lorenzo Alfieri, buona giornata.